giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Ogni giardiniere dovrebbe essere un artista nel suo genere. Quello è il solo modo possibile di creare un giardino, indipendentemente dalla dimensione o dal benessere. Vita Sackville West. La natura ci trasforma in artisti se proviamo seriamente a interagire con lei. Bentrovati al Giardino Segreto. L'isolamento a cui siamo sottoposti non ferma chi vuole condividere, chi vuole conoscere, chi vuole vendere, chi vuole acquistare, perché oltre alla radio esiste il web e ancora su quello ci basiamo, e tra poco visiteremo virtualmente alcune delle novità che non abbiamo potuto vedere alle Mostre Mercato 2020. In particolare oggi ci concentreremo su quelle relative ai piccoli frutti da coltivare in vaso sui balconi di città. Subito invece qualche rudimento per aspiranti garden designers, perché se il sogno di molti dopo questo periodo di lockdown è godere finalmente un giardino, occorre avere chiare in testa le regole base per ottenerne uno che sia davvero lo specchio in cui incontrare la natura e quindi noi stessi. A fornire corsi online dalla sua casa di Firenze e anche lezioni gratuite in questo periodo sul suo profilo Facebook è Maria Chiara Pozzana, architetto, restauratrice di giardini storici e docente di garden design innamorata dei piccoli giardini urbani. Ben trovata al Giardino Segreto. Buona domenica e grazie per questa opportunità, sono molto contenta di essere con voi. E sì, la mia sfida è stata questa, passare dal restauro di giardini monumentali anche a scale molto più domestiche, che però sono importanti, importantissime per noi, per la nostra vita, per le nostre città. E quanto sono importanti in questo momento i giardini personali, i giardini domestici, in questo momento di lockdown intendo, in cui il cittadino che può godere di un suo giardino personale è davvero in una posizione invidiabile. E quindi credo che proprio in questo periodo il desiderio o perlomeno il sogno di un giardino sia venuto un po' a tutti. Ma vorrei chiederle subito, qual è la differenza tra uno spazio verde e un giardino? È così, innanzitutto durante la pandemia io avevo così, mi ero appassionata all'idea il giardino ci salverà, era l'ancora di salvezza, io ho la fortuna di averne uno e ci ha veramente aiutato tantissimo. Ecco, qual è la differenza tra spazio verde? Lo spazio verde è un'area indifferenziata, infatti io non amo molto parlare di spazi verdi. Lo spazio verde diventa giardino quando dietro c'è un'idea. C'è l'amore del proprietario, l'amore per la natura, ma anche l'arte, perché il giardino è sempre una combinazione di arte e natura. Non è solo natura, è l'insieme delle due cose. Quindi c'è lo sguardo dell'uomo che lo trasforma in giardino. E uno scambio continuo, io immagino. Assolutamente sì. Il giardino evolve nel tempo, il giardino non è mai uguale a se stesso ed è forse l'esperienza più bella, vedere come cambia crescendo. Normalmente io dico che ci vogliono 3 anni, perché da quando lo pianti a quando è visibile come tu lo hai pensato, come lo hai immaginato, come lo hai progettato, ci vogliono circa 3 anni. E poi da quel momento comincia la sua evoluzione, la sua continua metamorfosi. Un anno sarà più bello, poi c'è il clima che varia, le stagioni, il variare dei colori, il variare delle piante, qualche pianta sta male, la sostituisci, cioè è un rapporto fisico che tu c'hai con il giardino, di totale immedesimazione, è un pochino, se il paragone può reggere, ma è quasi come avere un animale domestico, insomma noi abbiamo un piccolo cane e quindi questa sintonia, ecco, questa vicinanza continua e lo vedi modificare. Il giardino è metamorfosi, noi diciamo, cambia nel tempo e per me è uno degli aspetti più interessanti. Quando lo progettiamo dobbiamo tenere conto che noi lavoriamo col tempo, anche in una piccola cosa. Cosa vuol dire lavorare col tempo? Io pianto un piccolo albero che mi sembra piccolissimo nel momento in cui lo pianto, devo tenere conto della sua dimensione nella maturità ed è incredibile quanto velocemente alle volte le piante crescono. Questo è un errore molto frequente che la gente, diciamo gli appassionati che però magari non conoscono, ecco, è molto importante usare le piante che conosciamo, non quelle che ci piacciono nei cataloghi. Io lo dico sempre questo nelle nostre lezioni, anche nei nostri progetti, non prendiamo un catalogo così e scegliamo a caso. Quindi ci sono degli step, dei passi per trasformare uno spazio verde indifferenziato, senza anima, senza caratteristica, senza identità, lo facciamo diventare lo specchio di noi stessi, il nostro riflesso, quello che noi amiamo si deve vedere nel giardino. Quindi io penso in particolare a tutte le persone che in questo momento hanno uno spazio adibito ad altro e possono trasformarlo in un giardino. Quindi il primo pensiero da fare non è prendere un catalogo, sfogliarlo e scegliere le piante a seconda del colore o del portamento, ma innanzitutto guardare il nostro spazio e individuare l'obiettivo che abbiamo. Dicevo, innanzitutto è un problema di scala, cioè se io ho uno spazio di 50 metri quadri o di 500 metri quadri è evidente che le cose cambiano e alle volte è più difficile in uno spazio più piccolo che grande. L'errore classico è di prendere piante che non sono dimensionate per la scala del mio giardino, ecco perché insisto molto sulla conoscenza della vegetazione. Le piante le dobbiamo conoscere per nome e per cognome, ci vuole tempo, questo è vero, però tutti possono impararlo. Chi proprio si affaccia al problema del giardino, quello che noi cerchiamo di insegnare nei nostri corsi appunto è di intanto capire lo spazio, capire la scala, capire l'esposizione, perché è molto importante, sole, ombra, capire il terreno, che tipo di terreno io trovo, lo posso modificare, lo posso migliorare, però quello va considerato indubbiamente, e successivamente capire le funzioni, organizzare le funzioni, dare una forma al giardino, il più possibile semplice, non facciamo cose elaborate, eccessive, eccetera. La semplicità, l'armonia sono le prime regole, dopodiché solo dopo che abbiamo fatto lo schema in pianta del giardino possiamo cominciare a studiare le piante, non prima. Queste sono proprio le regole di base, proprio l'ABC di un approccio serio al giardino, di chi vuole il più possibile non commettere errori e avere un risultato durevole. Disegnare il nostro giardino è la prima cosa che per esempio consiglia Montydon, che è il guru dei giardinieri in Inghilterra. Questo lui dice come prima cosa, disegnare il nostro giardino, chiudere gli occhi e immaginarcelo. Dico che proprio ne sono convinta anch'io ed è quello che noi facciamo e che facciamo fare anche a chi non ha mai preso in mano una matita. Questa è la nostra scommessa, perché il giardino, almeno per come la vedo io, poi ci possono anche essere approcci diversi, però per come la vedo io, il giardino lo vedi prima nella mente e poi lo realizzi con la mano e con il disegno in pianta. Poi se sei particolarmente bravo nel disegno puoi fare degli schizzi prospettici, le sezioni sono più semplici da fare, ma la planimetria, che però è già un grande atto di progettazione, perché tu disegni in pianta quello che sarà tridimensionale, quello che cioè avrà uno sviluppo nell'elevato, e quindi è un'operazione mentale che bisogna imparare a fare, ma quasi tutti ci riescono, quindi è abbastanza intuitivo. Intuitivo e sicuramente creativo come esercizio, non può farci che bene. Il giardino è arte essenzialmente, e io alle volte insomma mi piace dire che il giardino parte sempre da un'idea, poi c'è la forma, poi c'è la tecnica, sono tre fasi però tutte molto importanti, non se ne può saltare una perché non ci sarebbe un buon risultato, ma inizialmente è un'idea, anche nel piccolo, anche in una cosa che apparentemente è semplice, ma devi trovare un'idea, la forma geometrica, il senso di quello spazio, il collegamento con la casa che è essenziale, i punti di vista, che cosa tu vuoi vedere, che cosa vuoi non vedere eventualmente di quello che c'è intorno o degli spazi del giardino, come li vuoi vedere dalla casa. Ecco, queste sono un po' le basi, diciamo così, dell'approccio al progetto del giardino. E secondo me il gesto del disegnare può davvero aiutarci a chiarire quello che abbiamo magari solo confusamente in testa. Quindi buttarlo sulla carta, mettere, come si dice, nero su bianco, può aiutare anche a fare chiarezza sui nostri desideri e su quello che dal giardino ci aspettiamo, invece che delegare per questo completamente un'altra persona, magari un professionista. Beh, è un pochino lo scopo così dei nostri corsi, non è che io voglio creare degli autodidatti un po' improvvisati, io voglio dare, come dire, le basi di un linguaggio, qualsiasi forma d'arte si basa su un linguaggio. E quindi il linguaggio del garden design è quello che abbiamo molto molto sinteticamente adesso accennato. E soprattutto io sono contraria all'improvvisazione, perché l'improvvisazione, che io chiamo fare l'insalata mista, questo lo vediamo molto spesso nei piccoli giardini di città, spesso assegnati magari al giardiniere che nella migliore delle ipotesi, con la migliore intenzione, prende quello che c'ha magari nel piccolo vivaio eccetera eccetera e crea così, insomma, quindi i risultati li conosciamo, sono ben noti. Insomma, quindi l'atteggiamento è un altro, però c'è una fortissima componente artistica, infatti io chiedo sempre sempre ai miei corsisti: qual è la ragione per cui voi volete fare questa esperienza? Interrogatevi sulle vostre motivazioni. C'è quasi sempre un interesse per la natura e per l'arte, perché sono le due cose che si fondono nel progetto del giardino. Inutile, noi possiamo parlare di tecnica quanto vogliamo, ma ci sono queste due componenti che sono alla base dell'ideazione. Natura e arte mi fa venire in mente la bellezza. Quindi c'è sempre un desiderio di bellezza, quella che ci salverà, soprattutto se la cerchiamo in un giardino. Maria Chiara Pozzana, lei è un architetto, una restauratrice anche di giardini storici. Perché invece questa tendenza a divulgare l'arte della progettazione dei giardini? Dunque, io ho sempre insegnato, mi è sempre piaciuto trasferire quello che ho imparato in tanti anni. Io ho cominciato a insegnare nel 1989. Questa cosa del garden design mi è venuta un pochino anche frequentando così proprio l'Inghilterra, vedendo le loro esperienze, e l'idea di fare dei laboratori di progettazione nel mio studio, che è nata 5-6 anni fa, è un po' l'evoluzione di questo percorso. Noi abbiamo fatto anni fa anche corsi master in restauro dei giardini storici, eccetera. Per me la scommessa, capisco che non sia, forse è un po' una scommessa difficile da vincere, però per me è importante il giardino di piccola scala, il parco storico. Io ho restaurato il giardino Bardini, insomma, oramai anni fa, ho lavorato a Venerie Reali, insomma, in grandissimi progetti. Ma io vedo che nelle nostre città manca la cura del piccolo spazio, del piccolo giardino domestico. Ed è insensato, perché è il biglietto da visita delle nostre città, è il biglietto da visita delle nostre periferie. In effetti, un giardino in città non è un regalo che facciamo solo a noi stessi, evidentemente, ma lo facciamo anche alla nostra comunità, al nostro centro urbano, a chiunque lo possa vedere, ne possa godere. Certo, questa esperienza la sperimentiamo continuamente, vedendo, non so, anche dei centri, dei paesi in Europa, in Francia o appunto anche nella stessa Inghilterra, insomma, dove anche il piccolissimo giardino del villino, del famoso villino che c'ha il front yard, il back yard, i due piccoli spazi differenziati davanti e sul retro della casa, quanto sono curati, quanto sono progettati. Ecco, la mia scommessa sarebbe riuscire a fare anche in Italia, a diffondere questa cultura. Ecco, lei, Maria Chiara Pozzana, poco fa ci ha riassunto, diciamo, il suo curriculum, e io devo dire a chi ci ascolta che una lezione legata alla progettazione dei giardini è disponibile, libera, gratuita su internet. Basta cercare su Facebook Maria Chiara Pozzana, ed è una lezione che dura un'ora e che ti dà dei rudimenti davvero importanti. Si parla delle basi, insomma, da dove iniziare, ma davvero dopo averla seguita ci si rende conto di avere una conoscenza in più. Tra l'altro lei ha sempre fatto corsi in casa sua, adesso è periodo così di lockdown, non si può più fare, però si è organizzata con dei corsi online via Skype. Uno parte giovedì prossimo, un altro che parte a giugno. Si tratta sempre di 3 giornate, di 3 mezze giornate. Sì, il prossimo è il 21 di maggio e le informazioni relative si trovano anche sì su Instagram Garden Design Firenze, o anche nel nostro sito, che è sempre gardendesignfirenze.com. Lì ci sono tutte le informazioni. Stiamo iniziando, perché logicamente probabilmente sarà anche, non dico solo, ma una parte del nostro futuro, io penso che sarà online. Perché ovviamente finché non si riapriranno le possibilità concrete di incontrarsi in uno spazio chiuso e fare esperienze progettuali, non c'è altro che internet, e grazie a Dio che abbiamo questa possibilità, insomma, che ci consente, insomma, di non perdere il contatto con il resto del mondo, diciamo pure. E di non perdere il contatto con la natura, anzi, magari di attivarlo proprio in questo momento così particolare, così speciale. Attraverso la tecnologia si possono apprendere delle cose, si ha il tempo per farlo e può scattare, no? Quindi questo contatto con la natura da una parte e la creazione dei giardini dall'altra. Della diretta Facebook sul Garden Design l'ho detto, ce ne sarà presto un'altra, sempre su Facebook, però dedicata al restauro dei giardini storici, quindi prendere il passato e proiettarlo nel futuro. Sì, stavo studiando di fare una diretta Facebook sul giardino storico, anzi ancora più coraggiosamente sull'approccio di restauro del giardino storico, che quindi tutti possono comprendere quanto sia complicata come materia, però ci sono degli argomenti, dei soggetti che io credo, come un altro è il paesaggio culturale, che dovrebbero essere di dominio pubblico. Come si affronta un giardino storico è una cultura generale, voglio dire, non per far tutti restauratori di giardini storici, ma perché anche chi non è ovviamente proprietario di un giardino storico, non ha mai pensato neanche lontanamente, ma solo sapere che c'è una maniera di gestire il patrimonio vuol dire portare quello che la storia ha consegnato a noi, passarlo alle generazioni future. Quindi questo è il principio del restauro del giardino storico. Ha tutt'altra tematica, ma per me sono collegate anche il piccolo giardino domestico alla stessa importanza di un parco storico, perché fa parte di una realtà urbana o di una realtà paesaggistica, diciamo. Quindi è tutto un insieme che noi possiamo affrontare un po', come dire, olisticamente. È un insieme, è la natura, è il paesaggio che noi creiamo col nostro sguardo, è un tutt'uno. Questa è un pochino la mia filosofia, diciamo così, quella che cerco di applicare nel mio lavoro. Niente è arte se non viene dalla natura. Antoni Gaudì. Da Firenze ci spostiamo in Piemonte, in provincia di Cuneo, dove un vivaio continua la sua ricerca su frutti inusuali, anche esotici, adatti ai climi italiani. Ci faremo raccontare le novità sulle piccole piante da frutto adatte ai balconi e ai terrazzi di città, tra un attimo. Il giardino segreto. Anche piccoli frutti in vaso possiamo regalarci su terrazzi di città pur non essendo esperti. Le novità 2020, un vivaio di Dogliani in Piemonte, specializzato appunto in piccoli frutti anche insoliti ed esotici, le avrebbe presentate alle mostre mercato. Non ci sono state, allora rimediamo qui nello stand radiofonico del Giardino Segreto attraverso i racconti di Dennis Barroero del vivaio Dennis Botanic Collection. Sì, diciamo che tutti gli anni facciamo mostre mercato sia primaverili che autunnali. E gli appuntamenti, diciamo quelli un po' più importanti, sono a Lucca per Verde Mura e Murabiglia. Facciamo la fiera a Milano Orticola, che si sarebbe dovuta svolgere appunto nel mese di maggio. E un'altra mostra mercato importante che facciamo è quella al Castello di Masino, vicino ad Ivrea, qua in provincia di Torino. Forse tra tutte è la più storica, è stata una di quelle che ha dato poi il via a tutte le altre mostre. Purtroppo tutte queste mostre mercato non abbiamo potuto vederle, e allora cerchiamo di raccontare, diciamo, le novità su cui avreste puntato alla radio. Certo. Ma allora, noi ad esempio per questa primavera le tre novità più importanti e che si presterebbero anche alla coltivazione in vaso sarebbero state il ciliegio cespuglio, il gelsonano e il viburnum trilobum, che è un viburnum di origine canadese che fa bacche consumabili previa cottura come il cranberry. Oh, abbiamo parlato di ciliegi qualche settimana fa al Giardino Segreto, presentando quelli di Celleno, un comune del Lazio che è stato a lungo zona rossa a causa di un focolaio, quindi abbiamo dedicato un'intera puntata a questi alberi che sono un po' grandicelli e problematici da portare in città. Invece il ciliegio cespuglio ci dà questa possibilità. Sì, la pianta in questione che avremmo dovuto presentare, appunto questo ciliegio cespuglio, è un ibrido, cioè quindi è stata una selezione che è stata effettuata in Canada tra un Prunus cerasus e un Prunus fruticosa. L'obiettivo era quello di ottenere delle piante a basso sviluppo che potessero permettere la raccolta meccanizzata, però appunto in questo caso anche la coltivazione in vaso. L'ibrido risultante è questo Prunus percherasis e viene chiamato volgarmente Buscherri. Ciliegio cespuglio, che appunto è un ciliegio dalle dimensioni contenuto che volendo si può anche prestare ad una coltivazione in vaso, quindi anche da balcone o per piccoli spazi in giardino. Ci regala fioriture quindi? Sicuramente, sì, la fioritura è quella appunto del ciliegio e poi ci sono i frutti per la stagione poi estiva che sono, rispetto a tante varietà di ciliegie che oggi si trovano in commercio, forse leggermente più piccole, però appunto c'è il vantaggio delle dimensioni contenute della pianta. Lei ci sta dicendo che anche tenendolo in vaso potremmo ottenere un raccolto? Sì, le piante crescono in un vaso, per intenderci, diametro 18-20 e andrebbero poi spostate successivamente in un vaso di almeno un 30-35 di diametro, questo per garantire un ottimale sviluppo della pianta e quindi per permettere alla pianta anche di riuscire ad effettuare l'allegagione per avere poi i frutti. E che esposizione dobbiamo avere soleggiata? Esatto, sì, almeno una mezza giornata di sole, se non addirittura ancora meglio un pieno sole, per favorire una buona fioritura e quindi una successiva fruttificazione, allegagione. E questo ciliegio cespuglio lo può coltivare anche chi non ha grande esperienza? Cosa dice? Sì, ecco, il vantaggio di queste piante è anche la rusticità, sono fruttiferi definiti minori, quindi sono passati anche tra virgolette in secondo piano, ma per scelte diciamo del mercato, proprio mercato del consumo fresco, perché per la pezzatura, la colorazione dei frutti, però hanno appunto il vantaggio rispetto a tante altre piante classiche da frutta che richiedono molti trattamenti, di essere molto, molto più rustiche sia per quanto riguarda le malattie fungine e sia la rusticità su vari insetti. E quello che ha detto finora, compresa la rusticità, vale anche per il gelso nano? Sì, il gelso nano non è un ibrido, ma è proprio una specie, il Morus rotundiloba, è stata una selezione varietale, la varietà appunto viene definita Moyo Berry, sono andati a recuperare questa specie naturale di Morus rotundiloba che aveva dimensioni contenute ma purtroppo non dava alternanza di produzione, semplicemente con selezioni anno dopo anno hanno migliorato e fino a selezionare una varietà appunto, quella che dicevamo prima, la Moyo Berry, che garantisce un raccolto costante anno per anno, ha dimensioni contenute la pianta e il vantaggio oltre alle dimensioni contenute della pianta rispetto a un gelso normale, il vantaggio appunto è quello che produce sia sui rami vecchi che quelli nuovi. Questa forse è una cosa un po' più tecnica, però per la pianta è una bella caratteristica. Lei parla di gelso e mi vengono in mente le more, ma come si presenta un gelso e come si presenta un gelso nano? Vabbè, un gelso classico, il gelso nero e il gelso bianco sono alberi secolari e quindi arrivano anche ad altezze di 10-12 metri le piante. Il gelso invece, questo qua, il Morus rotundiloba, si presenta come un piccolo arbusto, un cespuglio, appunto sempre lignificato, però raggiunge un'altezza massima di 1,5-2 metri circa e quindi come il ciliegio cespuglio si presta sia per una coltivazione in vaso piuttosto che in un piccolo giardino. Quindi Morus rotundiloba, Moyo Berry e questo gelso nano, il cui nome è più facile da ricordare, che oltre ai frutti ci regala anche una decorazione, se abbiamo solo un balcone o un terrazzo. Solo le foglie, se così vogliamo dire, perché la fioritura del gelso non è molto appariscente, invece le foglie sono di un bel verde lucido, quindi proprio l'apparato fogliare, quello a livello estetico che appaga di più l'occhio. E io mi accontento perché il verde è sempre un bel vedere. Ma i frutti? In questo caso appunto il Morus rotundiloba produce bacche di colorazione nere, sono molto dolci, con la giusta punta di acidità, sono gradevoli, piccoli frutti da mangiare freschi. Allora, abbiamo visto che il gelso nano ci regala dei frutti, ma quanto a fioritura è un po' carente. Possiamo accostarlo a questo punto al Viburnum trilobum, che è un'altra delle novità che avreste presentato alle mostre mercato di primavera, e lì con le fioriture invece ci siamo. Esatto, è un viburno di origine canadese, noi avremmo presentato la varietà Wentworth, che è una varietà selezionata proprio per il frutto, piccola bacca dalla colorazione rossastra, molto simile al mirtillo rosso, il cranberry. Quindi fioriture bianche deliziose e poi però abbiamo anche le bacche. Fioriture che avvengono proprio in questo periodo, cioè molto ornamentali, il viburno di per sé è molto, molto estetico e poi appunto in seguito all'allegagione porta a maturazione questi frutti rossastri che maturano durante la stagione autunnale, che possono essere consumati però previa cottura. Sono molto simili alle proprietà dei mirtilli rossi, si presta ad una coltivazione ovviamente sia in vaso sia in piccoli giardini. E io ho visto dei viburno meravigliosi in alcuni giardini storici anche in Liguria, invece un bel viburno possiamo anche portarlo sul nostro terrazzo. Le mostre mercate non ci sono state, però possiamo comunque acquistare online. Assolutamente, sul nostro sito web se è possibile ordinare, facciamo spedizione in tutta Italia con Corriere Espresso GLS. Quindi non dobbiamo assolutamente rinunciare alle nostre piante perché si possono comunque ottenere. Ha notato in questo periodo che abbiamo attraversato molto pesante, quello recente un po' meno, insomma speriamo bene, un aumento di richieste, di acquisti online? Sì, il dato è proprio un aumento veramente esponenziale delle vendite online e rispetto agli anni precedenti c'è stato davvero un grosso incremento, quindi la gente che era interessata, nonostante non ci siano state le mostre, ha potuto comunque acquistare e avere le proprie piante. Difficile come una città, con mille strade, semplice come le luci di un paese in festa, fragile come una verità che non so dire, unica come la natura della frutta, come la certezza che sei un respiro bellissimo, sei un fiore che non ha pensiero bellissimo che mai si perderà, perché se poi d'un tratto cambia il tempo e se cambia il vento, io so che ti ritrovo sempre là dove sempre sole. DennisBotanicCollection.it per ritrovare il ciliegio cespuglio, il gelsonano, il Viburnum trilobum Wentworth e molti altri piccoli frutti. A proposito di mostre mercato, la più famosa del mondo, il leggendario Chelsea Flower Show di Londra, che più di ogni altra influisce sul gusto e lo stile dei giardini, pur annullata, peraltro per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, si farà. Si terrà online. L'appuntamento per tutti, libero, è questa settimana dal 19 al 23 maggio sul sito e sui social del Chelsea Flower Show. Buona visione, io vi aspetto in giardino domenica prossima, sempre alle 15.30 o quando volete sulle piattaforme podcast. Una buona settimana da Roberta Pellegatta.